bombonio. Bombonio rap. Come? Rap. A papà, fare un super. Sai che se viene zio, se mi ha tolto, eh? Non ti fa zio, eh? Il gringhello. Se viene zio, guai, eh? Attore. Oh, yeah.